Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Dal fiume uscì una donna, vestita da capo a piedi. Guadagnò a fatica il greto per poi sedersi e appoggiarsi a un gelso. Rimase seduta lì tutto il giorno e tutta la notte, il capo contro il tronco, abbandonata, al punto da rompere la falda del cappello di paglia. Sentiva male da tutte le parti, ma più di tutto ai polmoni. Passò quelle ore così, tutta inzuppata, respirando appena, cercando di vincere la pesantezza delle palpebre. La brezza del giorno le asciugò il vestito. Il vento della notte glielo stropicciò. Nessuno l'aveva vista emergere dall'acqua e nessuno si era spinto per caso da quelle parti, ma anche se qualcuno l'avesse fatto, molto probabilmente, prima di avvicinarla, avrebbe esitato. Non perché fosse tutta bagnata, perché sonnecchiasse o sembrasse avere l'asma, ma perché, nonostante tutto, sorrideva. Il giorno seguente le ci volle tutta la mattina per riuscire ad alzarsi da terra e farsi strada nel bosco, superare un grande tempio di bossi, arrivare infine al prato e al cortile della casa grigio ardesia. Nuovamente esausta, si sedette nel primo posto che trovò, un ceppo non lontano dai gradini del 124. Tenere gli occhi aperti ora le costava un po' meno fatica, riusciva a farlo per un paio di minuti o anche più. Il collo, la cui circonferenza non superava quella di un piattino del servizio buono, continuava a piegarsi e il mento sfregava il pizzo che le ornava il vestito. Aveva l'aspetto delle donne che bevono champagne senza un motivo per festeggiare. Spesso portano di traverso i cappelli di paglia con la falda rotta, ciondolano il capo davanti a tutti, hanno le scarpe slacciate, però la loro pelle non è come quella della donna che respirava piano vicino agli scalini del 124. Lei aveva la pelle intatta, liscia e senza grinze, persino sulle nocche delle mani. Nel tardo pomeriggio, quando lo spettacolo al circo era ormai finito e i neri se ne tornavano a casa, trovando un passaggio, se erano fortunati, se no andando a piedi, la donna si era nuovamente addormentata. I raggi del sole la colpivano in pieno volto, perciò quando Seth, Denver e Paul D. giunsero in prossimità della casa, videro solo un vestito nero, al di sotto di questo due scarpe slacciate, e s'accorsero che Here Boy non era nei paraggi. «Guardate!» disse Denver. «Che cos'è?» E per una qualche ragione, di cui Seth non seppe darsi spiegazione al momento, quando si avvicinò alla ragazza quel tanto che bastava per vederla in volto, si sentì scappare la pipì, disse solo «Oh, scusatemi!» e andò di corsa dietro al 124. Non le era più successo di dover scappare a quel modo da quando era una bambina, quando a occuparsi di lei era la ragazzina di 8 anni che le aveva indicato qual era sua madre. Mai più ce l'avrebbe fatta raggiungere la latrina, arrivata proprio di fronte alla porta. Dovette tirarsi sulla gonna e liberare una quantità infinita d'acqua. «Come un cavallo», pensò Seth. Ma poiché ancora non accennava a terminare, pensò «No, sembra più la volta che ho mezzo allagato la barca quando è nata Denver». Così tanta acqua che Amy le aveva detto «Basta, Lou, se continui a questo modo andiamo a fondo». Ma come le acque di un ventre che si apriva non si potevano fermare, così non si fermavano neanche ora. Sperava che Paul D. non si sarebbe preso la briga di andarla a cercare ed essere perciò costretto a vederla rannicchiata davanti alla latrina mentre sotto di lei si formava un pantano troppo profondo per poterlo guardare senza doversi vergognare. Proprio quando ormai stava per chiedersi se al circo avrebbero accettato un altro fenomeno da baraccone, l'acqua si fermò. Seth si rassettò e corse dall'altra parte sulla veranda. Non c'era nessuno. Erano in casa tutti e tre. Paul D e Denver stavano in piedi, di fronte alla sconosciuta, e la guardavano mentre beveva l'acqua, una tazza dopo l'altra. «Ha detto che aveva sete», disse Paul D, togliendosi il berretto. «Una sete del diavolo, a quanto pare». La donna vuotò ad un fiato l'acqua contenuta in una scodellina di latta screziata e la tese, facendo cenno di volerne ancora. Denver la riempì per quattro volte e per quattro volte la donna bevve l'acqua, come se avesse attraversato il deserto. Quando ebbe finito, le rimase qualche goccia sul mento che però lei non si curò d'asciugare. Fissò invece Seth con occhi assonnati. «Ed è nutrita», pensò Seth. Ed era più giovane di quel che gli abiti lasciavano supporre. Una bella trina all'altezza della gola e un costoso cappello da signora. La pelle era perfetta, senza screpolature, fatta eccezione per tre graffi verticali sulla fronte, così delicati e sottili che a prima vista sembravano quasi dei capelli, come i capelli dei bambini, prima che sbocciassero e si attorcigliassero nella massa nera, trattenuta adesso dal cappello. «Sei di queste parti?» le chiese Seth. Lei fece cenno di no e si chinò per togliersi le scarpe. Si alzò la veste fino al ginocchio e si sfilò le calze arrotolandole. Quando le ebbe riposte dentro le scarpe, Seth s'accorse che i piedi della ragazza erano come le mani, con la pelle morbida e intatta. «Si sarà fatta portare da un carro», pensò Seth. «Probabilmente era una di quelle ragazze della West Virginia», alla ricerca di qualcosa di meglio che una vita fatta di piantagioni di tabacco e di sorgo. Seth si chinò per tirar su le scarpe. «Come fai di nome?» le chiese Paul D. «Beloved, amatissima», rispose lei. E la sua voce era bassa e così aspra che gli altri tre si guardarono perplessi, udirono prima la voce e poi il nome. «Beloved, ti fai chiamare col cognome, Beloved?» le chiese Paul D. «Cognome?» sembrava perplessa. Poi disse «No». E glielo sillabò piano, come se le lettere prendessero forma mentre le pronunciava. A Seth caddero le scarpe di mano. Denver si mise a sedere. E Paul D sorrise. Aveva riconosciuto il modo attento di pronunciare le lettere di chi, come lui, non sapeva scrivere, ma aveva memorizzato le lettere del proprio nome. Stava per chiederle chi fossero i suoi, ma poi ci ripensò. Una ragazza di colore che fuggiva dalle macerie. Quattro anni prima era stato a Rochester e aveva visto arrivare cinque donne con 14 bambine. Tutti gli uomini, fratelli, zii, padri, mariti, figli, erano stati abbattuti uno dopo l'altro. Avevano solo un foglio di carta che li raccomandava a un predicatore di Devor Street. La guerra era finita già da 4 o 5 anni, però nessuno, né bianco né nero, sembrava saperlo. Lungo le strade secondarie e le piste per le mandrie che andavano da Schenectady a Jackson, si incontravano strani sciami di gente di colore allo sbando. Inebetiti, però perseveranti. Si cercavano ostinatamente a vicenda sulla base della parola di un cugino, di una zia, di un amico che una volta aveva detto «Conta pure su di me, se capiti dalle parti di Chicago, vieni a trovarmi». Alcuni correvano via dalle famiglie che non li potevano mantenere, altri correvano a cercare le famiglie. Alcuni correvano via dai raccolti scomparsi, dai parenti scomparsi, dalle minacce della vita e dalla terra espropriata. Ragazzi più giovani di Howard e di Baglar, diverse configurazioni e miscele di famiglie composte da donne e bambini, mentre altrove, solitari, cacciati e cacciatori, c'erano gli uomini e ancora gli uomini. Poiché il trasporto pubblico era loro proibito, inseguiti dai debiti e dalle sporche lenzuola parlanti, seguivano le vie secondarie, scrutavano i cartelli all'orizzonte e facevano grande assegnamento l'uno sull'altro. Silenziosi, tranne che per i necessari convenevoli sociali, quando si incontravano non parlavano né volevano sapere dei dispiaceri che li spingevano da un posto all'altro. I bianchi non sopportavano le ciance, lo sapevano tutti. Così Poldi non insisté con la giovane donna dal cappello rotto per sapere da dove venisse o come fosse arrivata fin lì. Se voleva farglielo sapere e se era tanto forte da riuscire a parlarne, l'avrebbe fatto lei. Quello che più li preoccupava, al momento, era di che cosa potesse aver bisogno. Al di sotto dell'interrogativo più grande, ognuno di loro ne covava un altro. Poldi si meravigliava delle sue scarpe nuove. Seth era commossa per quel suo dolce nome. Il ricordo della lapide scintillante la rendeva particolarmente tenera nei suoi confronti. Denver, però, era scossa. Osservava quella bella addormentata e ne voleva sapere di più. Seth appese il cappello a un attaccapanni e si girò con fare aggraziato verso la ragazza. «È un bel nome il tuo, Beloved. Perché non ti togli il cappello intanto che io preparo qualcosa? Siamo appena tornati dal circo, giù vicino a Cincinnati. È un bello spettacolo!» Impalata sulla sedia, Beloved si era nuovamente assopita, proprio mentre Seth le porgeva il benvenuto. «Miss! Miss!» Poldi la scosse con delicatezza. «Vuoi sdraiarti un momento?» Lei aprì gli occhi solo d'una fessura e si alzò. I piedi intatti, a malapena in grado di svolgere il loro compito, la condussero lentamente al soggiorno. Una volta là, crollò sul letto di Baby Sachs. Denver le tolse il cappello e le mise sui piedi la trapunta coi due riquadri colorati. Respirava come una vaporiera. «Sembra difterite», disse Poldi, richiudendo la porta. «Alla febbre, Denver, l'hai toccata?» «No, è fresca.» «Allora ce l'ha. La febbre va dal caldo al freddo.» «Può anche essere che abbia il colera», disse Poldi. «Da che cosa lo vedi?» «Tutta quell'acqua è un chiaro segno.» «Poverina, e in questa casa non abbiamo niente per curarla, se la deve far passare da sola. Se c'è una brutta malattia è proprio quella lì.» «Non è malata!» esclamò Denver. E la veemenza con cui lo disse li fece sorridere. La ragazza dormì 4 giorni, svegliandosi e mettendosi a sedere solo per bere dell'acqua. Denver la curava, vigilava il suo sonno profondo, ascoltava il suo respiro affannoso e, sia per amore sia per una pericolosa forma di possessività che la investì, nascondeva, quasi come se fosse una macchia personale, l'incontinenza di Beloved. Sciacquava le lenzuola di nascosto, dopo che Seth era andata a lavorare al ristorante e Poldi era andato alla ricerca di qualche chiatta da scaricare. Faceva bollire la sua biancheria e la immergeva nella tintura smacchiante, pregando che la febbre se ne andasse senza causare danni. Era così intenta a prendersi cura di lei che dimenticava di mangiare o di andare nel suo rifugio color smeraldo. «Beloved», le sussurrava Denver. «Beloved». E quando questa apriva gli occhi, tutto quello che Denver riusciva a dirle era solo «Sono qui, sono sempre qui». A volte, quando Beloved se ne stava distesa a lungo con occhi sognanti, senza parlare, passandosi la lingua sulle labbra e respirando profondamente, Denver cadeva in preda al panico. «Che cosa c'è?» le chiedeva. «Mi pesa», sussurrava Beloved. «L'aria di questo posto mi pesa. Vuoi metterti a sedere?» «No», rispondeva lei con la sua voce agra. Ci vollero 3 giorni prima che Beloved si accorgesse delle toppe arancione che spiccavano in quella trapunta scura. Denver ne era contenta, perché servivano a tenere sveglia più a lungo la sua paziente. La ragazza sembrava totalmente assorbita da quegli sbiaditi ritagli arancione. Fece persino lo sforzo di appoggiarsi su un gomito e di carezzarli. Uno sforzo che presto la sfinì. Così Denver risistemò la trapunta in modo che la ragazza ne avesse a portata d'occhio la parte più allegra. La pazienza, una virtù a lei finora sconosciuta, sorprese Denver. Finché sua madre non interferiva, era un modello di misericordia, però si indispettiva subito non appena Seth cercava di rendersi utile. «Ha mandato giù un cucchiaio di qualcosa oggi?» si informava Seth. «Con il colera è meglio se non mangia niente». «Sei sicura che sia quello? Era solo un'idea di Paul D.» «Non lo so, però non dovrebbe mangiare ancora niente». «Di solito chi ha il colera vomita di continuo. È un altro buon motivo, no?» «Beh, però non deve neanche morire di fame, Denver. Lasciaci in pace, signora. Mi prendo io cura di lei». «Non ha detto niente?» «No, se no te lo avrei detto». Seth guardò sua figlia e pensò: «Sì, è stata sola. Molto sola». «Chissà dove si è cacciato Here Boy». Seth pensò che fosse meglio cambiare argomento. «Non tornerà», disse Denver. «Come lo sai?» «Lo so e basta», rispose Denver, prendendo dal piatto un quadratino di animella. Tornata nel soggiorno, stava per sedersi quando Beloved spalancò gli occhi. Sentì il battito del suo cuore accelerare all'impazzata, non perché poteva osservare per la prima volta quel viso senza scorgervi tracce di sonno o perché i suoi occhi erano grandi e neri, né perché nel bianco degli occhi c'era troppo bianco, un bianco azzurro, ma perché nel fondo di quei grandi occhi neri non c'era alcuna espressione di sorta. «Vuoi qualcosa?» Beloved guardò l'animella nelle mani di Denver e Denver gliela porse. Lei allora sorrise e il cuore di Denver smise di palpitare all'impazzata e si calmò, sollevato e tranquillo, come un viandante che sia finalmente arrivato a casa. Da quel momento in poi, qualunque cosa capitasse, lo zucchero fu qualcosa che le faceva sempre piacere. Era come se fosse nata per le cose dolci. Il miele e anche la cera nel quale era contenuto, i panini con lo zucchero in mezzo, la melassa poltigliosa nel barattolo, anche se ormai dura e sgradevole, le limonate, le caramelle, qualsiasi altro tipo di dolce Seth potesse portare a casa dal ristorante. Masticava un bastoncino di canna da zucchero fino a ridurlo in filamenti, che poi teneva in bocca anche quando ormai non c'era più sciroppo da succhiare. Denver rideva, Seth sorrideva e Paul D diceva che la cosa gli dava il voltastomaco. Seth pensava che fosse una necessità naturale del corpo, dopo una malattia, per riacquistare forza più rapidamente. Ma fu una necessità che continuò sempre, anche quando la ragazza godeva ormai di ottima salute, poiché Beloved non andò più da nessuna parte. Sembrava che non ci fosse alcun posto dove potesse andare. Lei non aveva mai accennato a un posto in particolare, né sembrava capire bene che cosa ci facesse lì, né dove era stata. Credevano che la febbre le avesse procurato un vuoto di memoria, oltre a impedirle di muoversi più in fretta. Pur essendo una donna giovane, di 19 o 20 anni, ed esile, si muoveva come se fosse ben più vecchia e pesante, aggrappandosi ai mobili, appoggiando il capo nella palma della mano, come se il collo, da solo, non bastasse a reggerlo. «E tu la vuoi mantenere? Così, punto e basta, da adesso in avanti?» Paul D., accorgendosi che si stava comportando in modo meschino, restò sorpreso lui stesso e udì il tono di irritazione che si sprigionava dalla sua voce. «Denver le si è affezionata, e poi non dà problemi. Bisogna solo aspettare finché non respira un po' meglio. A me sembra che non riesca ancora a muoversi tanto». «C'è qualcosa di strano in quella ragazza», disse Paul D., come se stesse parlando a se stesso. «Strano in che senso?» «Si comporta come una malata, sembra malata, ma a guardarla bene non ha l'aria di una persona malata. Bella pelle, occhi limpidi, è forte come un toro». «Ma no, che non è forte, riesce a camminare solo se si appoggia da qualche parte». «È quello che dico anch'io. Non riesce a camminare, però l'ho vista alzare la sedia a dondolo con una mano sola». «Ma va! Non darmi del bugiardo. Chiedi a Denver. Era proprio lì con lei». «Denver, vieni qui un momento». Denver smise un attimo di lavare la veranda e ficcò la testa nel vano della finestra. «Paul D. dice che avete visto Beloved tirare su la sedia a dondolo con una mano sola. È così?» Le lunghe, folte ciglia di Denver facevano sembrare i suoi occhi più affaccendati di quel che erano in realtà. ingannevoli, anche quando sfidavano lo sguardo di un'altra persona, come stava facendo ora con Poldì. «No», rispose, «non ho visto niente del genere». Poldì aggrottò la fronte, però non disse niente. Semmai tra loro ci fosse stato un chiavistello aperto, si sarebbe richiuso. Maria Paiato ha letto Amatissima di Toni Morrison, traduzione di Giuseppe Natale. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.